pallone sotto i lotti, no? Non mangia merda che va in giro con la bicicletta tutto sozzo! Ma che ti sei messo i pantaloni? Le cose no, le sigarette no, sempre il comportamento della neve! Ma l'ha fatta la vita! Ah, da quando che sto piccoletto che mi hanno insegnato! Sabato 20 maggio 2017. Onda Rossa gialla e verde. Radio Onda Rossa Birthday Bash. La storia del reggae romano a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Dalle ore 23 musiche di DJ set live con Radio Torre Sound System featuring Country, Contramina, Feni. Dagli pure te, Lampadred e Sego, Morfire, B1, Fabio B e Gianni, Pecoz out a Villa da Posse. Allo Strike SPA, Via Partini, Portonaccio. Sabato 20 maggio 2017. Onda Rossa gialla e verde. Radio Onda Rossa Birthday Bash. La storia del reggae romano a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Cazzato de prima, le cose costano troppo e si stringa ancora di più la cinta. Mo faccio il battello che fai, provi a andare a lavorare. Ma una cosa sicura te dico, non c'è pensa. E da scippa, piuttosto mi dai una mano, non me vai da spacciare, mi pare da andare a rubare.